Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi. A nome appunto di Fastweb, di Vodafone e di Wind siamo molto lieti di accogliervi a questa conferenza stampa dove vogliamo esporvi le nostre idee sulla fibra ottica e quello che pensiamo di fare per il Paese. L'abbiamo chiamato Fibra per l'Italia perché questo non è solo un progetto di Fastweb, di Vodafone, di Wind, ma vuole essere un progetto di tutto il Paese e per tutto il Paese. È una maniera con cui noi intendiamo appunto spingere l'innovazione nel nostro Paese. Quindi, prima di procedere con la presentazione, lasciatemi dire che abbiamo letto che su qualche giornale qualcuno ha definito un progetto alternativo. Ora, in realtà non è alternativo se non alternativo allo status quo o alternativo a, diciamo, la situazione attuale. Non è un progetto alternativo a qualche altra cosa, perché come vedrete noi pensiamo che ci debba essere un solo progetto cui partecipano tutte le controparti interessate e che, se fatto così, è un progetto che può volare da subito, può essere bancabile e può essere un progetto per il Paese. In questo senso noi siamo molto orgogliosi di aver lasciato perdere per una volta gli interessi particolaristici di ogni singola società e aver lavorato insieme bene per molti mesi appunto per spingere un progetto comune per il nostro Paese. Questo è per le slide. Ecco, quindi, quali sono gli obiettivi di questo progetto? Evidentemente guardare al futuro e far diventare l'Italia leader nei servizi a banda larga, quindi avendo finalmente una rete moderna in un'infrastruttura strategica per il Paese. Vogliamo che ai cittadini italiani, alle imprese, alla pubblica amministrazione sia garantita un'infrastruttura che permetta appunto efficienza, produttività e innovazione. Noi vogliamo avviare un processo economico virtuoso che possa permettere di riprendere crescita e lavoro per i prossimi anni in un'area altamente strategica e che sia agisca da volano, che possa permettere occupazione in tutti i settori economici. Ecco, credo che questo sia tanto più importante quando guardiamo appunto in questi giorni allo scenario che ci circonda esterno. Quindi, soprattutto in un momento di difficoltà economiche e finanziarie, io credo che sia importante appunto operare insieme per il Paese e nel Paese. Quindi abbiamo studiato, ci siamo confrontati tra noi a lungo e vedrete come nella presentazione dei miei colleghi emergeranno delle soluzioni molto interessanti che hanno risolto alcuni dei problemi che ci siamo posti, perché alcune dei constraint che avevamo erano importanti, hanno provocato grandi problemi anche ad altri nel cercare di risolverli e noi pensiamo di aver trovato delle soluzioni viabili ed estremamente interessanti. Ovviamente, come deve essere questa rete del futuro di cui si parla da tempo, evidentemente non può che essere unica, è un investimento importante, evidentemente è un investimento necessario ma dispendioso e quindi il rilevante anche impatto urbano e ambientale non permette di avere più reti, non avrebbe senso, ne sarà una. Lo schema sarà un fiber to the home, la rete in fibra deve raggiungere ogni singolo appartamento e sarà una rete aperta, deve essere una rete aperta che possa permettere a tutti gli operatori di offrire i loro servizi in concorrenza. Evidentemente deve essere una rete efficiente, la rete attuale non è una rete efficiente, è una rete vecchia che tenderà all'obsoleto e ha dei costi di manutenzione che, come vedrete, superano di gran lunga i costi di una nuova rete, quindi sarà un obiettivo di raggiungere efficienza. E vogliamo una rete ad elevate prestazioni, non vogliamo che si crei in Italia l'equivalente di uno scartamento ridotto per le ferrovie o un progetto poco ambizioso che in pochi anni si rivelerebbe non adeguato. Quindi questi sono i nostri obiettivi, chiederei al mio collega Carsten Schlotter di spiegarvi un po' più in dettaglio cosa abbiamo in mente. Ladies and gentlemen, a warm welcome, and you must excuse my English, because my Italian is still somehow a work in progress. Now, investing in a new network technology fundamentally always raises the same questions, which are, is an investment really needed? And the second question that traditionally comes is, where are the applications? So if there are no applications today, no need for a network. But be aware, in our industry, for example, if we would have waited for the iPhone to be available before investing in UMTS technologies in the mobile network, well, the iPhone would never have happened. I imagine that we would have said, let's wait for YouTube before we build ADSL. Well, YouTube would never have happened. We have a fundamental pattern in our industry that network investments is the first thing that has to be done in an overall ecosystem so that the innovation on application level can really happen. Remember the discussions that we had when building the UMTS networks. For years, papers wrote critically, nobody needs these investments. Today, we couldn't imagine our daily life without those networks. So we have a fundamental pattern that somewhere everything in the ecosystem of information technology starts with the investment in network capacity. Now, that also means that you have to have a very long-term view. And you have to think about what are the potential applications that people will need in 10 years, 15 years. And especially on a fiber network. Because whereas a mobile network can be constructed quite quickly today, an implementation of a new technology goes quite quickly, the construction of fiber, as it implies civil work, is something that needs a construction horizon to reach a significant coverage in Italy of 5 to 10 years. So you need to have a long-term vision. Now, what happens if a country invests later than other countries? Well, there's a substantial risk. There's a substantial risk associated to it, because today you won't make the difference, but in 5 years, you will be lagging behind, and there will be no way to catch up because of the construction timing. And today you must be aware that fiber to the home networks, they are built in the US. They are built in Scandinavia. They are built in France. They are built in Germany. They are built in Switzerland. They are built today, meaning other relevant economic countries started to build fiber to the home networks. And that means the decision point to invest in such a technology is now. If you wait for other countries to see whether they are successful or not, well, it's going to be a problem if they met to be successful, because you will be lagging behind by 5 or 6 years. Now, what are potential services that will be allowed by a fiber network? Today, we all used, for example, to have our data, our personal data, music, images, and so on the devices that we carry with us. And data synchronization amongst those different devices has become a total mess. And with high-capacity networks, storage doesn't need to be on devices anymore. Storage is going to be in the network, allowing you to access to your data through every device that we use. That means that through television, through your mobile phone, through your PC, you will be able to access seamlessly all of your data, because the capacity of the networks will be such that local storage becomes superfluous. Same is true in business. Which means that on fiber, if you invest in fiber, you have to believe in the future. You have to be aware of the development of our industry in the past. Innovation requires investments in network first. Now, second, I want to touch a subject that might... There are no slides anymore. It's probably a bandwidth problem. Second, I want to touch on this slide that might seem quite technical. But in fact, there is not one way to build a fiber network. You can build a fiber network in many different ways. But it's important for Italy that the industry agrees on one standard how to build a fiber network. Because what would be a mess is if different regions in this country built fiber networks according to different standards. Imagine big corporations Imagine customers moving around, being forced to use telecommunication service on networks built with different standards. It would be a mess from a customer perspective. That means if you want to have a good customer experience, it needs one standard. Now, currently, there are different standards that are under discussion, and with our technology jargon, the two important or most important standards are GPON and point-to-point. Now, currently, internationally, there is a clear trend towards point-to-point network, a clear trend. Why point-to-point? You have to understand that on fiber, the capacity of a dark fiber, of a fiber, optic fiber, is basically unlimited. Today already, you can carry over a fiber multiples of gigabits. The limitation in the technology comes out of the electronics that you use at the end of the fiber. Now, building a point-to-point network allows each operator in the market, though having only one network, to use his own electronics. And what does it mean? It means it enables competition on innovation. Competition on innovation. In the contrary, a GPON network would require every operator to use the same electronic, which means that basically bandwidth and capacity would be just the same for every operator, eliminating innovation competition. Furthermore, point to point, as every household will have one single fiber, is almost unlimited in terms of capacity. Whereas on GPON, many households will share the same fiber, which will over time induce some limitations in terms of scalability and capacity. Now somebody could counter, okay, let's start with GPON, which is a little bit cheaper, and then we'll move to point to point if the capacity is required. But here you have to be aware that 80% of the realization cost of a fiber network is civil works. It's not technology, it's civil works. What does it mean? It means that once you have built a network with one technology, you cannot change anymore, you cannot upgrade anymore, because you would have the civil work cost again. So an upgrade is no option. You have to choose the technical standard from the very beginning. And one of the purposes of this initiative is to make sure that Italy adopts one common standard and a future-proof standard. Therefore, our efforts will clearly be focused on the point-to-point standard, which is a little bit more expensive, but which creates much more long-term potential and real competition. Let's talk a few minutes about the pilot that we aim to do in Rome. Now, the first important thing to say, the pilot is not an experiment. It's not about experimentation. Yeah? It's a concrete step in the realization and in the definition of a nationwide standard. The only purpose of this pilot is to have a showcase where the industry can agree on a common standard as a prerequisite to build a network in a common standard in Italy. It's not an experiment. It's a first step in the implementation to get to this industry-wide standard. This field trial that we will be doing is open to all. Telecom Italia authorities are invited to see the operational aspects, the technologies, and the costs, so that the technology and regulatory discussion on next-generation network can go ahead, but on concrete terms based on a real field experience. The field test is a creation of a new fiber optic network in a city district currently only served by copper networks. The new area in terms of network will be totally independent from existing networks. And the network will be open, which means it will allow for fiber unbundling, which every operator being able to use his own electronics on the fibers of this network, analog to the model I just presented. The three operators will migrate all of their customers from copper to fiber in these regions at no extra charge for the customers. And this means it will be possible to provide immediately bandwidth like 100 megabits downstream. In this bandwidth discussion, one thing that's fundamentally important today, when you talk about fiber, you're talking about bandwidth of 100 megabits. Be aware that once the network will be built, these are not the bandwidth that we will talk about in 5 years. The bandwidth we will talk about in 5 years internationally are bandwidth of 1 gigabit or else. And I recall, in other countries, the fiber networks are already being built. And this makes clear the huge gap in infrastructure that would arise if Italy does not start investing now. The area chosen is the Fleming district in Rome, a residential area in the north of Rome. The plan encompasses 7,400 households. And again, it would be absolutely vain to have a discussion who has the bigger pilot. It's not the number of households in the pilot that is relevant. The relevant thing is to come to a nationwide standard, because it's not an experiment, it's a step in standardization. The realization works have started last April, and we will be able to provide the first buildings with fiber optic ultra broadband connectivity as from July. We are experimenting the latest technologies for the building in order to reduce inconvenience for inhabitants. And we will organize in July one day for the press to visit the new infrastructure, and you will be welcome to see the next generation networks. I will now hand over to Mr. Bertoluzzi, who will explain you the economics and the business case for these new networks. Grazie Carsten, torniamo all'italiano. È un piacere, se posso aggiungermi anch'io, essere qui con voi oggi, ed è un piacere perché abbiamo fatto un percorso insieme ricco, credo, ed è un piacere potervi spiegare nella sostanza quali sono le nostre idee e quello che ci auguriamo l'Italia possa fare. Luigi e Carsten ci hanno detto che siamo di fronte a un tema strategico per il Paese, ci hanno detto che la discussione non è se c'è già oggi la domanda, ma si tratta di iniziare a modernizzare la nostra rete in anticipo rispetto alla domanda, perché alcune cose siano possibili, ma anche per soddisfare una domanda crescente che già oggi c'è, perché il traffico sta crescendo moltissimo già sui servizi di oggi. Ci siamo detti che vogliamo per l'Italia una sola rete, proprio perché è un'infrastruttura strategica, richiede importanti investimenti e deve esserci una sola rete, che questa sola rete deve essere aperta a tutti gli operatori perché in competizione possono offrire servizi ai clienti innovando e continuando a farsi quella che vediamo tutti i giorni in televisione e che definirei una guerra commerciale competitiva sana per il mercato. E ci siamo anche detti che questa deve essere un'infrastruttura FTTH, quindi portando la fibra fino a casa, al pianerottolo, all'appartamento o all'azienda, e deve essere realizzata con una tecnologia punto punto, perché è quella che veramente ci fa guardare al futuro e consente a queste reti di essere delle reti moderne per i prossimi 100 anni e veramente accessibili a tutte. Allora, permettetemi di fare un passo avanti, da un passo che potrebbe sembrare un po' tecnico, ma vi garantisco non lo è, vi garantiamo non lo è, perché è uno degli elementi fondanti di quello che abbiamo insieme sviluppato e che è quello che auspichiamo, no? Porteremo avanti per l'Italia. Allora, quando andiamo a vedere, siamo andati a vedere qual è il costo, no? Per i prossimi 10 anni di manutenere una linea in rame che oggi arriva ad un appartamento in una città, in una grande città, e quello che invece sarebbe il costo per realizzare e manutenere per i prossimi 10 anni, al posto di quel filo di rame, un filo di fibra, secondo la medesima architettura della quale abbiamo appena parlato, quindi fibra fino a casa realizzata con la tecnologia punto a punto. I risultati sono molto importanti. Manutenere un filo di rame per i prossimi 10 anni, manutenere, sostituire, aggiustare, quello che serve, dovrebbe costare più di 900 euro. Realizzare e manutenere un filo di fibra per quello stesso appartamento può costare due cose abbastanza diverse tra di loro, ed è importante capire la differenza. Se su quel filo di fibra o meglio, se nell'area geografica, nel quartiere nel quale la fibra arriva, soltanto il 50% delle abitazioni passano dal rame alla fibra, allora il costo unitario di realizzazione e di manutenzione è vicino ai 1.500 euro, quindi più caro del rame. E allora si pone il problema, ma la gente pagherà di più, non c'è domanda, perché gli italiani dovrebbero spendere di più e così via. Ma se invece su questa, in questo quartiere, in questa zona, tutti i clienti passano dal rame alla fibra, anche per continuare alcuni di loro a usare i servizi di oggi, magari soltanto il telefono per la voce, oppure internet a bassa performance, no? Se tutti i clienti migrano, allora in realtà questo costo scende, e questa è la valutazione che abbiamo fatto noi, intorno agli 870 euro, e quindi addirittura sotto il costo di manutenzione per quello stesso periodo del rame. E attenzione, perché poi per i secondi 10 anni, se siamo ancora nel caso del rame, spendiamo altri 915 euro. Se siamo nel caso della fibra, il costo di manutenzione di un filo di fibra per i 10 anni successivi probabilmente è sotto i 100 euro. E quindi ci siamo messi di fronte a un'infrastruttura che non solo è più moderna, aperta a tutti e che guarda al futuro, ma che è anche più efficiente da mantenere e da gestire. Quindi se portiamo tutti i clienti nelle zone che andiamo a coprire sulle infrastrutture in fibra, allora il costo della fibra può essere uguale a quello del rame o addirittura inferiore in futuro. E questo consente quindi a tutti i clienti di migrare secondo una vera e propria logica di modernizzazione, che a questo punto non è più necessariamente guidata da una logica di domanda, e cioè chi proprio la vuole la prende ma la paga di più, ma da una logica di modernizzazione della tecnologia, dell'infrastruttura alla base del nostro paese. C'è un altro elemento che è molto importante quando uno poi va a valutare economicamente l'iniziativa, che se tutti i clienti, dato che pagano qualche cosa di simile se i servizi rimangono quelli di oggi, a questo punto hanno interesse a migrare, allora i ricavi prospettici della fibra sono molto più prevedibili, perché non esiste un rischio che dice chissà chi la prenderà, visto che costerà di più, chissà chi ne avrà bisogno. Sarà evidente che tutti i clienti migreranno, e a quel punto anche i ricavi della società della fibra, o comunque i ricavi associati alla fibra, saranno molto più prevedibili, e quindi il rischio sarà più basso, e quindi l'iniziativa sarà molto più facile da finanziare. E quindi la fibra per tutti modernizza la rete degli italiani senza aumentarne il costo. Partendo da questi presupposti, quelli presentati da Luigi, da Carsten, e questo ultimo ragionamento che è fondamentale per il progetto che noi crediamo l'Italia debba intraprendere, qual è il modello che abbiamo in testa? Tutto sommato è un modello semplice. È un modello che prevede la cooperazione per realizzare gli investimenti nell'infrastruttura passiva e la competizione, così come c'è oggi, sui servizi, sull'innovazione, sul prezzo, sulla gestione del cliente, tra i diversi operatori che poi, affittando la fibra e ciò che serve a loro per realizzare i servizi, no, decideranno di fare come propria strategia aziendale. Noi immaginiamo una società della fibra alla quale possono partecipare gli operatori, tanto per cominciare gli operatori di telecomunicazione, a partire da Telecom, alla quale noi auspichiamo possa partecipare Cassa Depositi e Prestiti, proprio perché questa è un'infrastruttura strategica per il futuro del Paese. Potranno partecipare banche, investitori finanziari, altri investitori privati, molte volte, no, si sente dire di aziende che potrebbero essere interessate, le istituzioni locali, le utilities, si sente parlare di progetti locali, ad esempio la Lombardia, benissimo, no? Possono essere, no? Possono far parte di un unico progetto nazionale nel quale ciascuno contribuisce e nel quale si cercano delle convergenze. Più riusciremo a far convergere interessi in questa iniziativa, e più questa iniziativa potrà avere successo e potrà quindi, no, costruire la rete del futuro. E poi, come vi dicevo prima, No? Ciascuno di noi potrà comprare alle stesse condizioni da questa società della fibra quello che serve per realizzare i propri servizi in competizione, come oggi, per i clienti privati, per le famiglie e per le aziende. Abbiamo fatto un piano, una simulazione operativa e abbiamo lavorato partendo da 15 città che abbiamo selezionato con una combinazione di città ad elevata popolazione, ad elevata densità di appartamenti e di aziende, ma abbiamo anche tenuto conto delle città nelle quali esistevano già oggi delle infrastrutture passive, ad esempio i cavidotti o le tubazioni, utilizzabili per rendere il progetto il più efficiente possibile. Da questo presupposto abbiamo identificato in questa prima battuta 15 città, stiamo parlando di 10 milioni di abitanti, fondamentalmente il 15-16% della popolazione italiana, ipotizzando di realizzare la nuova infrastruttura su queste 15 città servono più o meno 2 miliardi e mezzo di euro. E seguendo quel modello di prima di cui abbiamo parlato, e cioè un'unica rete aperta sulla quale migrano tutti i clienti a costi sostanzialmente equivalenti a quelli di oggi del rame, questa è un'iniziativa che è assolutamente finanziabile a tassi di mercato perché ha un ritorno economico nell'ordine dei 9-10 anni che per un'infrastruttura che ha quelle caratteristiche che abbiamo detto prima e che ha una buonissima capacità di prevedere i propri ricavi è assolutamente ragionevole e economico. Questa può essere una prima fase, possiamo vedere anche progetti più ambiziosi. Qui su questa pagina vedete una possibile seconda fase, un progetto più ambizioso realizzabile nei prossimi 10 anni. No? Se si estendesse questo stesso tipo di logica a 500 comuni, e stiamo parlando fondamentalmente della metà della popolazione italiana, allora l'investimento ovviamente cresce, stiamo parlando più o meno di 8 miliardi e mezzo, ma il ritorno economico rimane un ritorno economico assolutamente ragionevole per questo tipo di infrastruttura. Questo è il motivo per il quale nessuno di noi è qui a dire che no, bisogna sussidiare questo tipo di infrastruttura, bisogna, no, che vengano messi soldi pubblici a fondo perduto. No, è fortemente auspicabile una partecipazione nell'equity e nel debito dell'azienda da parte di Cassa Depositi e Prestiti, ma non devono essere investiti soldi pubblici a fondo perduto. Le nostre tre aziende ovviamente hanno pensato a questo, hanno questa visione in comune, hanno pensato a come si può concretizzare questa visione, ma ovviamente danno la loro disponibilità per sviluppare ulteriormente questo progetto, raccogliendo i contributi di tutti ovviamente, a partire da quelli di Telecom Italia. Siamo ovviamente disposti a partecipare economicamente al finanziamento, all'equity di questo progetto, no? In funzione di chi altro vorrà partecipare, ma soprattutto, no, in funzione di quella che sarà la volontà, no, politica di portare avanti questa visione per l'Italia e di concentrare su questa visione, su un'unica rete aperta a tutti, gli investimenti dell'Italia. Siamo ovviamente pronti, coerentemente con quello che abbiamo appena finito di dire, a migrare il 100% dei nostri clienti in queste aree che andremo a coprire e stiamo già avviando un pilot, quindi non un test, un pilota, come ci ha detto Carsten, in questa zona di Roma, nella quale andremo anche a verificare le modalità operative che sono nuove. Vi presentiamo un progetto che con queste modalità è estremamente avanzato rispetto a quello che sta succedendo nel mondo e ovviamente lo stiamo per testare in campo. Ci sono, perché tutto quanto questo sia possibile, delle condizioni importanti dal punto di vista delle regole, delle norme, delle leggi, e di questo vi parla Luigi, al quale passo la parola. Ecco, abbiamo visto che abbiamo un piano tecnologicamente avanzato, tecnicamente fattibile, finanziariamente viabile e bancabile. Quindi cosa serve a questo punto, cosa osta perché il progetto possa andare avanti e possa essere portato a realizzazione. Ebbene, una delle cose che stupiscono a volte nel nostro paese è che mentre da una parte siamo tutti a favore dell'innovazione, siamo tutti a favore della tecnologia più avanzata di modernizzare il paese, dall'altra abbiamo dei comportamenti incoerenti con questa attitudine positiva verso la fibra ottica, verso la modernizzazione, ovvero sia si continua a incentivare la vecchia rete, di cui si modifica artatamente la profittabilità, e ovviamente sfavorendo quello che è l'approccio nuovo. Non c'è bisogno di essere rocket scientist, si direbbe in inglese, per dire che se si aumenta la redditività di una vecchia rete si dissuade dall'investire nella nuova. E quindi quando si è parlato abbiamo avuto la notizia di un possibile aumento dei costi di ULL, ci siamo convinti di essere su scherzi a parte. Cioè non è possibile che si vogliano aumentare dei costi agli operatori sulla vecchia rete in assenza evidentemente di un quadro appunto che possa permettere una chiarezza, una stabilità, eccetera, diventa molto difficile portare avanti i progetti di investimento. E non mi riferisco ovviamente solo all'ULL, ma parliamo del bitstream, del costo dell'wholesale rental, collocation, terminazione su rete telecom, ci sono tutta una serie di cose su cui si permette in qualche modo di aumentare la redditività della vecchia rete e in questo modo si allontana sempre di più la fibra ottica. Quindi io credo che sarà importante che vi sia coerenza tra gli enunciati a favore della fibra stessa e il comportamento evidentemente nel campo della regolazione. Quindi bisogna evitare ulteriori vantaggi, che come per esempio le offerte bundle su cui vanno immediatamente applicati test di prezzo, e ovviamente va mantenuto quello che è il costo wholesale medio nazionale, piuttosto che una differenziazione geografica come alcuni sostengono. Evidentemente su tutti questi campi siamo in assoluta controtendenza con il resto dell'Unione Europea. In questo campo, devo dire, l'Italia nel 2009 ha fatto probabilmente la peggior performance. Dobbiamo inoltre garantire dei meccanismi di transizione da rame a fibra. Questo è un piano che ha il vantaggio di essere, da un punto di vista finanziario, per cui che è un settore per il quale alcuni di voi sanno che ho una certa passione, evidentemente le banche, gli investitori amano quello che è predicibile, quello che è predictable. Se noi passiamo tutti gli investitori, tutti i clienti da rame a fibra e quindi in qualche modo stabilizziamo e abbiamo una chiara funzione di domanda, ecco che a questo punto per l'investitore diventa chiaro cosa sta finanziando, quali sono i rischi che prende e quindi tutto diventa improvvisamente fattibile. Deve essere evidentemente facilitato, ci deve essere un aiuto a che questo possa avvenire e deve avvenire con attenzione e con precisione. Io credo che in Italia abbiamo un buon esempio di un settore che ovviamente è diverso, ma che ha avuto uno switch, o che sta avendo uno switch molto ordinato, che è quello della televisione. Il digitale terrestre è avvenuto con ordine, i clienti non hanno subito particolari disagi, shock, eccetera, non hanno sostanzialmente avuto nessun problema rilevante, si sono trovati su un'infrastruttura nuova, moderna. E in questo, devo dire, tanto di cappello al settore e a chi ha gestito questo tipo di problema. Però appunto ci vuole un quadro che sia anche per il futuro chiaro e predicibile, quindi va favorita la competizione sulla rete di accesso, quindi l'accesso cosiddetto unbundled, cioè disaggregato agli elementi come le canaline, la dark fiber, e quindi la cosiddetta equivalenza of inputs, ovvero sia la parità tra gli operatori, va garantita. Quindi non vanno permesse offerte non replicabili. In sintesi, quello che noi chiediamo è che il quadro sia chiaro e sia proattivo, sia positivo, perlomeno non negativo come è stato finora nei confronti dell'investimento in fibra. Questa è una delle condizioni che permetterebbero questo investimento, che noi riteniamo sia molto importante. Evidentemente, altrettanto, anzi probabilmente ancora più importante, è quello che deve essere il ruolo delle istituzioni. Abbiamo in questi giorni, come qualcuno di voi ha documentato, presentato il nostro piano ad alcune autorità, ad esponenti politici, evidentemente troviamo moltissimo interesse. D'altra parte è un interesse comune, lo abbiamo già detto, del modernizzare il paese e dotarlo di queste infrastrutture, non è certamente un interesse esclusivo alle nostre aziende. Quindi serve però a questo punto un intervento proattivo del governo e noi chiediamo, abbiamo chiesto, speriamo, auspichiamo che il governo avvii nelle prossime settimane un processo di coagulo tutte le forze produttive, le autorità positive nei confronti di questo progetto, così che si possa creare questa società per la fibra e creare un tavolo comune, un tavolo di lavoro con l'Agicom, con l'antitrust, ovviamente per definire gli assetti di governance, con gli altri operatori e con tutti quelli che possono essere interessati a sviluppare questo progetto. Quindi noi vorremmo fare un lavoro di aggregare questi interessi e partire, perché rispetto al passato io credo che quello che noi vi stiamo dicendo oggi è che noi siamo pronti a partire. Come ha detto Kassen, è finito il tempo degli esperimenti, è giunto il momento di dotare il paese di questa infrastruttura. Quindi abbiamo moltissimo apprezzato i convegni, gli studi, l'osservatorio, basti ricordare l'ottimo lavoro fatto dall'osservatorio parlamentare, quello presieduto dall'onorevole Valducci, piuttosto che altre commissioni, però adesso deve finire il momento di parlare, di discutere e deve essere il momento di fare. Quindi noi auspichiamo che il governo svolga questo ruolo proattivo, che l'Agicom crei questo contesto appunto regolamentare che ci permetta di andare avanti, che tutti gli operatori evidentemente verifichino in un primo luogo e poi si rendano conto che questo progetto è nell'interesse di tutti noi operatori e di tutto il Paese e quindi si possa partire molto rapidamente con il progetto come vi è stato illustrato. Noi siamo pronti.